Capitolo V. La preghiera eucaristica. Approfondiamo ora, e ogni volta che celebriamo o assistiamo alla Santa Messa, la parte più importante del Santo Sacrificio, la preghiera eucaristica, detta anche anafora. Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, con questa preghiera di rendimento di grazie e di consacrazione arriviamo al cuore e al culmine della celebrazione. Nel momento culminante della preghiera eucaristica, le parole consacratorie, il celebrante agisce non soltanto in nomine ecclesie, in quanto cioè rappresentante del corpo mistico di Cristo, ma altresì in persona Christi Capitis, facendo cioè le veci di Cristo capo della Chiesa. Così lo spiega Sant'Ambrogio. Infatti, tutto il resto che si dice anteriormente è pronunziato dal sacerdote. Si dà gloria a Dio, si presentano le suppliche, si prega per il popolo, per il re, per tutti gli altri. Ma quando viene il momento di fare l'adorabile sacramento, il sacerdote non adopera più parole proprie, bensì le parole di Cristo. È dunque la parola di Cristo che fa questo sacramento. Fino a che punto ci commuove questa realtà misteriosa e ineffabile che il cielo ha disposto per noi? Adoriamo il Signore. Consideriamo con quale riverenza e rispetto contempliamo il corpo e il sangue di Cristo. In questa solennissima preghiera, momento centrale e culminante dell'intera celebrazione, la Chiesa si rivolge al Padre, fonte di ogni bene, in unione con Cristo nella potenza dello Spirito Santo. Tutti i riti liturgici la presentano come una grande supplica composta di varie preghiere strettamente collegate tra di loro. Si comincia con un rendimento di grazie, il prefazio, coronato dal Sanctus. Segue poi un'epiclesi o supplica allo Spirito Santo, nella quale si chiede al Paraclito di trasformare con la sua potenza divina il pane e il vino nel corpo e nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Viene quindi il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, che non è un mero ricordo, ma un atto mediante il quale, grazie alle parole della consacrazione pronunciate dal sacerdote in persona Cristi, è operata la transustanziazione del pane e del vino. La stessa vittima del Calvario, ora nella gloria, è resa presente sull'altare. Subito dopo, obbedendo al comando di Cristo, viene la anamnesi, cioè il memoriale, il ricordo, in cui si fa memoria di tutto ciò che Gesù ha realizzato per noi e in particolare della morte, risurrezione e ascensione al cielo di nostro Signore. La Chiesa presenta al Padre l'offerta di suo Figlio. Non mancano le intercessioni, in diversi momenti a seconda delle varie preghiere eucaristiche. Vi si manifesta la comunione della Chiesa della terra con quella del cielo. Si prega per tutti i fedeli, vivi e defunti, e specialmente per il Papa e per i vescovi del mondo intero. La preghiera eucaristica termina con la dossologia o formula liturgica di lode alla Santissima Trinità, alla quale il popolo risponde all'unisono: Amen. Tutte queste orazioni dell'ordinario della Messa devono alimentare spesso la nostra personale meditazione. Se agiamo in questo modo, è molto probabile che il Signore faccia scoprire a ciascuno di noi dove dobbiamo migliorare, quali vizi sradicare, come impostare il nostro rapporto fraterno con tutti gli uomini. È assai conveniente perciò meditarle con frequenza. Tra le raccomandazioni rivolte da Giovanni Paolo II, in particolar modo ai sacerdoti nella sua lettera apostolica Mane Nobiscum Domine, figura questa: studiare a fondo i principi e norme per l'uso del messale romano. Ciò permetterà ai presbiteri, come frutto della loro personale meditazione del significato dei riti liturgici, di trovarsi nelle migliori condizioni per spiegare al popolo cristiano il senso dei grandi misteri racchiusi nel sacrificio della Messa, alimentando così la loro unione con Cristo e la loro devozione. «Non faccio davvero una scoperta», predicava il fondatore dell'Opus Dei, «se dico che alcuni cristiani hanno un'idea assai povera della Santa Messa e che altri la vedono solo come un rito esteriore, se non addirittura come una forma di convenzionalismo. È la meschinità del nostro cuore che ci fa accogliere come per abitudine il più grande dono che Dio potesse fare agli uomini. Per corrispondere a tanto amore ci si richiede una totale donazione del corpo e dell'anima. Noi infatti ascoltiamo Dio, gli parliamo, lo vediamo, lo gustiamo e quando le parole non ci sembrano sufficienti cantiamo, incitando la nostra lingua, pange lingua, a proclamare davanti a tutta l'umanità le meraviglie del Signore. Dialogo iniziale. Il dialogo iniziale tra il celebrante e i fedeli, con il quale si apre la preghiera eucaristica, implica già un particolare richiamo alla nostra attenzione, un annuncio del fatto che qualcosa di grandissimo è sul punto di compiersi. Ci viene ricordato che i nostri cuori, i nostri pensieri, i nostri più profondi desideri, assolutamente tutto, devono rimanere veramente concentrati su Dio. Non c'è più posto qui per la sonnolenza o per la distrazione. Si sta per realizzare l'azione più trascendente alla quale noi, uomini e donne di questa terra, possiamo prendere parte. I padri della Chiesa hanno commentato con insistenza questo dialogo che già nei primi secoli si svolgeva come oggi. Meditiamo, per esempio, ciò che affermano due testimoni delle tradizioni liturgiche dell'Oriente e dell'Occidente. San Cirillo, vescovo di Gerusalemme nel IV secolo, si rivolgeva ai neobattizzati con queste parole. Poi il sacerdote esclama: «In alto i cuori». Veramente, in quel terribile momento bisogna avere in alto il cuore verso Dio e non sulla terra e le cose terrene. Allora voi rispondete: «L'abbiamo rivolto al Signore, obbedienti a ciò che voi confessate». Nessuno vi sia che quando con la bocca dice l'abbiamo rivolto al Signore abbia per distrazione la mente negli affanni terreni. Sempre bisogna ricordarsi di Dio. Se ciò è impossibile per la debolezza umana, almeno in quel momento bisogna desiderarlo. Quasi un secolo dopo, Sant'Agostino insisteva sull'importanza di mettere da parte qualsiasi preoccupazione o pensiero inutile nell'iniziare la preghiera eucaristica. Tutta la vita dei veri cristiani, affermava, è un gridare in alto i cuori, non di quelli che sono cristiani soltanto di nome, ma di quelli che lo sono davvero. Che cosa significa in alto i cuori? Significa avere la speranza posta in Dio, non in te. Tu stai in basso, Dio è in alto. Se riponi la speranza in te, hai il cuore in basso, non in alto. Perciò, quando viene detto sursum corda, in alto i cuori, voi rispondete, abemus ad dominum, sono rivolti al Signore. Tali parole del Santo Vescovo di Ippona ci invitano a esaminare le nostre disposizioni profonde. Credo sia molto opportuno interrogarsi per verificare se davvero ci sforziamo per mettere da parte durante il Santo Sacrificio tutto ciò che potrebbe distrarci. Ragion per cui occorre lottare seriamente per mantenere il raccoglimento interiore nel tempo che precede la messa. È altresì opportuno chiederci se applichiamo personalmente a noi questa raccomandazione della liturgia sursum corda, in modo tale che il nostro cuore, le nostre facoltà e i nostri sensi siano completamente posti nel Signore. Che la vostra risposta sia sincera, prosegue Sant'Agostino, rispondete in accordo con la realtà. Che la coscienza non contraddica ciò che la lingua proclama, e affinché questo avere il cuore in alto verso il Signore non lo attribuiate alle vostre forze, ai vostri meriti, ai vostri sforzi, l'avere il cuore in alto infatti è un dono di Dio, dopo che il popolo ha risposto «sono in alto, rivolti al Signore», il vescovo o il presbitero che presiede continua dicendo «rendiamo grazie al Signore nostro Dio», appunto per il fatto che noi teniamo il cuore in alto. Rendiamo grazie perché se Lui non ci avesse fatto questo dono, noi avremmo il cuore sulla terra. Il prefazio, azione di ringraziamento. Vere dignum et iustum est, ecum et salutare. Così comincia il prefazio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. L'Eucaristia è l'eccellente sacrificio di adorazione e di azione di grazia, di propiziazione e di impetrazione, come lo stesso sacrificio del Calvario che essa rende presente in ogni tempo e luogo. Il prefazio manifesta in modo particolare la lode e la gratitudine della Chiesa al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo per tutte le sue opere, per la creazione, la redenzione e la santificazione. In Gesù, nel suo sacrificio, nel suo sì incondizionato alla volontà del Padre, c'è il sì, il grazie e l'amen dell'umanità intera. La Chiesa, scriveva Giovanni Paolo II, è chiamata a ricordare agli uomini questa grande verità. È urgente che ciò venga fatto soprattutto nella nostra cultura secolarizzata, che respira l'oblio di Dio e coltiva la vana autosufficienza dell'uomo. Ecco davvero una sfida apostolica di primaria importanza nell'attuale momento storico, sfida che rientra pienamente nel compito della nuova evangelizzazione della quale la società ha urgente bisogno. Dobbiamo manifestare con la nostra condotta quotidiana questo sì a Dio, questo elevare a Lui il nostro cuore. Esempio supremo ne è il sacrificio eucaristico. Nella Messa troviamo energie sempre nuove per portare a termine un profondo e capillare apostolato in mezzo al mondo. Risulta però indispensabile che tutti ci impegniamo a trasformare l'intera giornata in una Messa, rimanendo profondamente uniti con Cristo nel sacrificio dell'altare. Chiediamolo anche, sin da ora, per le generazioni future, che cioè sia molto ardente la loro partecipazione alla Santa Messa. Così proseguiva il Papa nella sua lettera apostolica. Incarnare il progetto eucaristico nella vita quotidiana, laddove si lavora e si vive, in famiglia, a scuola, nella fabbrica, nelle più diverse condizioni di vita, significa, tra l'altro, testimoniare che la realtà umana non si giustifica senza il riferimento al Creatore. La creatura senza il Creatore svanisce. Gaudium et Spes numero 36. Questo riferimento trascendente che ci impegna a un perenne grazie, a un atteggiamento eucaristico appunto, per quanto abbiamo e siamo, non pregiudica la legittima autonomia delle realtà terrene, ma la fonda nel modo più vero, collocandola al tempo stesso entro i suoi giusti confini. Occorre divenire consapevoli di questo dovere, come ci suggerisce anche San Paolo, in ciascuna delle circostanze che attraversiamo, sia che mangiamo, sia che beviamo, nel lavoro come nel riposo. 1 Corinzi 10:31. Qualunque cosa facciamo, dobbiamo restituire alla nostra esistenza la sua completa dignità cristiana, facendoci carico di redimere, cioè di innalzare al piano soprannaturale, le diverse attività, riportandole al loro autentico significato. In questo modo il nostro essere e il nostro agire si trasformano in una continua glorificazione di Dio. Ogni prefazio sviluppa inoltre qualche particolare motivo di gratitudine, a seconda della festa o del mistero che si celebra. Ci viene offerta una buona occasione perché ciascuno, con spontaneità e fiducia filiali, aggiunga in silenzio i propri personali motivi di riconoscenza al Signore, che non mancano mai. Se fate un favore a una persona che vi ringrazia, non avete poi voglia di continuare ad aiutarla? Pensate a ciò che farà il Signore che ci ama tanto, se vede che lo ringraziamo per tutto quello che fa per noi, per tutto quello che ci ha dato, persino per i benefici dei quali non siamo al corrente. Se infine tale riconoscenza si unisce all'azione di grazie di Cristo e della Chiesa nella Santa Messa, quale non sarà il suo valore? Seguiamo questo consiglio pieno di buonsenso. Ringrazia ora il Signore per tutto, persino per quello che non ti sembra buono, per quello che a volte non capisci, per quello che ti fa soffrire. Le cose che ti fanno soffrire sono come il pezzo di marmo che si separa dal gran blocco che sei tu, affinché la tua anima assomigli maggiormente a Cristo. Ringrazia il Signore per ogni cosa. In tal modo la nostra riconoscenza per i doni ricevuti risulterà molto gradita alla Santissima Trinità. Allora, nel recitare o nel cantare il Sanctus con il quale termina il prefazio, rimarremo intimamente uniti all'adorazione, al rendimento di grazie, alla lode che la Chiesa Celeste non cessa di innalzare al Dio tre volte santo. Io acclamo ed esulto con gli angeli, e non mi riesce difficile perché so di essere circondato da loro quando celebro la Santa Messa. Essi adorano la Trinità, e so anche che interviene in qualche modo la Vergine Santissima, a motivo della sua intima unione con la Trinità Beatissima, e perché è madre di Cristo, della sua carne e del suo sangue, madre di Gesù, perfetto Dio e perfetto uomo. Gesù, infatti, concepito nel seno di Maria Santissima, senza intervento di uomo, ma per sola virtù dello Spirito Santo, è del sangue di sua madre, lo stesso sangue che è offerto in sacrificio di redenzione sul Calvario e nella Santa Messa. Se siamo fedeli, se ricerchiamo una stretta unione con il Signore, se rivolgiamo a Lui le nostre intenzioni e opere, si compie un grande prodigio. Non pronunciamo note stonate nel canto di adorazione che senza posa è ripetuto in cielo dagli arcangeli e dagli angeli grazie alla loro fedeltà. Con la nostra devozione consolidiamo tutta la lode che la creazione eleva al Creatore. Sono bellissime le melodie tradizionali del Sanctus, Sanctus, Sanctus. Costituiscono un nuovo motivo per inserire tutta la nostra esistenza in questa sinfonia liturgica, per rinnovare il proposito, non tanto facile da realizzare ma alla nostra portata, di non togliere neanche una briciola a Dio della gloria che gli dobbiamo, di lottare con sincerità per muoverci esclusivamente con rettitudine d'intenzione e senso soprannaturale. Il Sanctus si conclude con una esclamazione di lode al Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Così gridava la folla mentre Cristo entrava come Messia a Gerusalemme, la Domenica delle Palme. Perché l'umanità, quando è veramente umana, ha bisogno di prorompere in un'acclamazione collettiva e individuale di gloria a Dio. Nonostante ciò, il Venerdì Santo, le grida di giubilo si trasformarono in clamori che chiedevano la morte del Signore. Noi, con la grazia di Dio, ci proponiamo ancora una volta di essere fedeli, di non tradire il nostro Re. Sappiamo bene, infatti, quanto siamo deboli. Confermiamo quotidianamente questo fermo proposito. Non vogliamo mai più morire a causa del peccato. Che la nostra risurrezione spirituale sia eterna. E quando sperimentiamo qualche difficoltà, qualche tentazione, cerchiamo rifugio nelle piaghe che il nostro Redentore ha voluto rimanessero impresse nel suo corpo glorioso per riempirci di fiducia. Mettiti nelle piaghe di Cristo crocifisso. Lì apprenderai a custodire i tuoi sensi, avrai vita interiore e offrirai continuamente al Padre i dolori del Signore e quelli di Maria, per pagare i tuoi debiti e tutti i debiti degli uomini.